Sound check, il suono della musica di Gigi Telesforo. Buona domenica a tutti da Gigi Telesforo. Siamo sempre barricati nel Groove Master Studio con l'ingegnere del suono, ovvero il super Riccardo Bomarzi. Buona domenica. Sì, buona domenica anche a te. Grazie per tutto il lavoro che stai facendo, Riccardo, e buona domenica anche a Francesco Tromba, che ieri sera dopo la puntata si è rimasto ancora un'ora in studio a rispondere a tutti i messaggi che arrivavano e che abbiamo collezionato su Twitter, Facebook e le nostre pagine attive. Sì, ne sono arrivati tantissimi perché è stata una puntata, devo dire, molto bella e soprattutto comunque fuori da tutti gli altri racconti, un modo di raccontare che non c'è probabilmente nelle altre radio. Speriamo, siamo contenti, siamo tutti felicissimi, vi ringraziamo dal profondo del cuore e vi vogliamo ringraziare proponendovi oggi delle novità discografiche. Sì, delle novità bellissime. Novità bellissime. Mi è piaciuto tantissimo. Francesco, è arrivato tantissimo materiale nelle ultime due settimane. Ho fatto fatica ad ascoltare tutto con attenzione, però mi sono fatto un'idea e un'opinione e ho operato le mie selezioni. Uno dei dischi più interessanti, insomma, anche per motivi affettivi, no? Perché noi abbiamo scoperto questa band qualche anno fa, si chiamano Moonchild, californiani, guidati dalla voce come potrei definirla? Celestiale, angelica, di questa polistrumentista, insegnante, docente di musica che si chiama Amber Navran, ragazza anche molto carina e sensibile, pare, che ha un unico difetto, quello di non rispondere mai ai nostri messaggi. Eh sì, è da un po' di anni che cerchiamo di contattarla per farci un'intervista, qualcosa, anche semplicemente per riuscire a comunicare con lei. Dovremmo però cambiare strategia, lo dico al nostro super per capire, perché è lui, è il Tromba che cerca contatti utilizzando il suo profilo Facebook. Che fai, Facebook o Twitter? Che Facebook. Invece mi sa che lo devo fare io. Sì, forse non le piace la mia immagine. No, profilo, ma non è per so. Motivi di immagine, ci vuole lo spunto. Ecco, io non so come spiegarlo e tradurre questa cosa agli amici che ci sono. È lo spunto, non si può, ci vuole lo spunto. Vabbè. La giusta intenzione. Ecco, allora, ma di che stiamo parlando? Ah, di Amber Navran, sì. Perché la signorina Navran ha fatto anche lei un disco finalmente da solista. È un album o un EP? È un EP, si chiama, si intitola Speak Up. Guarda, sai che a me piace questa cosa degli EP? Eh sì, funziona. Intanto devo dire, perché non ti sottopongono un ascolto di 40 minuti. Tu ascolti ormai un disco 40 minuti e sai che due sono i brani che fare una selezione prima. Ecco, noi facciamo l'ascolto radiofonico, nel senso che individuiamo i brani che secondo noi possono funzionare per il nostro programma. Poi facciamo un ascolto artistico, ovvero più approfondito, per capire le cose, i brani che ci possono insegnare qualcosa. Certo, magari ci sono dei brani che ci piacciono tantissimo, però in radio magari non funzionano benissimo. Esatto. Allora, invece direi di ascoltare subito Amber Navran con questa composizione. Non è un brano suo questo? No, questo è un brano delle Floetry. Allora, come si intitola l'album? Si intitola Speak Up. Speak Up, il brano è Letter 7 Say Yes. Album da solista finalmente arrivato, si intitola Speak Up, per Amber Navran, voce solista dei Moonchild Band, che comunque non abbiamo ancora visto dal vivo in Italia. No, per ora no, purtroppo. Hanno fatto un tour in Europa, però l'Italia ancora non l'hanno toccata. Beh, speriamo però che Amber Navran possa venire a trovarci e magari mandando un messaggio carino alla signorina riusciamo anche a averla ospite del nostro soundcheck. Sarebbe fantastico. Sarebbe carino per tanti motivi. Beh, ci provo, dai, provo a scriverle di nuovo, nuovamente. Vai. Ti leggo quello che è appunto il concept di questo disco che si intitola Speak Up, di questo EP. Ho fatto una traduzione dall'inglese sulla sua pagina di Bandcamp. Lei dice: fai venire fuori la tua creatività, mostrala al mondo, non lasciare che i tuoi dubbi, le tue paure, le tue lacune o la mancanza di conoscenze e risorse ti fermino. Prendi in prestito quello che ti serve, chiama gli amici se hai bisogno di aiuto, lavora anche dopo il lavoro, prenditi del tempo quando hai bisogno del tuo spazio, fissa una deadline. Non dare ascolto alle aspettative che la gente ha su di te o alla tua voce interiore che dice non sei abbastanza brava. Credi di potere, lotta per essere ascoltata, rafforzati, affidati al tuo orecchio, ispirati agli altri, prova paura e crea malgrado essa. Fai sentire la tua voce, che sarebbe il titolo del disco, Speak Up. E stiamo parlando del lavoro di una cantante, qui invece sembrava proprio quasi un libricino di filosofia, quasi uno scritto da Dalai Lama. Beh, l'ha interiorizzato molto questo lavoro, magari lei stessa non aveva fiducia in questo lavoro da solista. Ecco, io consiglio agli amici di rintracciare le produzioni di Moonchild per scoprire anche il talento di Amber Navran, che non solo è una brava cantante, ma nasce come sassofonista e flautista, e all'interno di questo EP si sente anche insomma il talento e il fraseggio tipicamente jazzistico di questa ragazza, che si sta facendo apprezzare però in un versante contemporary R&B, ma di grande classe e grande eleganza. Sì, tra l'altro è stato un anno molto importante per lei, perché oltre appunto ad aver fatto il disco con i Moonchild, questo disco da solista, ha anche partecipato a un disco molto importante, che è quello della rapper Rhapsody, dove ci sono tantissime featuring, tra cui anche Kendrick Lamar, Anderson Paak e tantissimi altri artisti. Sì, anche quello è un album che presenteremo magari la prossima settimana, magari, so che sì. A te è piaciuto molto. A me è piaciuto un sacco. Intanto a me è piaciuto questo EP di Amber Navran, che vi facciamo ascoltare ancora qui al Soundcheck di Radio 24 con quest'altra composizione, questa è originale. Invece il brano si intitola Lastia Love. Soundcheck. Il suono della musica. Di DJ Telesco. Nella puntata di ieri dedicata alla voce artistica abbiamo anche raccontato qualcosa del talento anche vocale di una musicista come Ney Palm, leader degli Hiatus Keyote dall'Australia, con furore, vocalità che è diventato uno stereotipo oggi, un modello da seguire per le cantanti della nuova generazione, così come fu Amy Winehouse dopo il successo con i suoi primi album anche in Italia. Ci sono state e ci sono delle cantanti che hanno seguito Amy Winehouse, no? Sì, come ad esempio Giusy Ferreri all'inizio. Era molto è vero. E oggi invece ci sono cantanti che seguono il modello di Ney Palm, così come sta succedendo, infatti la dimostrazione è anche Alicia Joy che è la vocalist leader di questa band chiamata 3070. Tu sai che cos'è il 3070, questa percentuale 30-70? No, cos'è? È qualcosa che è vicina alla composizione, alla percentuale della composizione della plastica per il vinile. La temperatura, quindi. La temperatura, credo la temperatura. Forse, sì. Potrei essere più preciso, dovremmo andare a studiare, ma insomma credo che si tratta di polietilene a bassa densità, e quindi c'è questa temperatura, una percentuale, insomma, super, tu che sai? Ne so veramente poco, però sì. Allora come super, dobbiamo andare a prendere informazioni. Comunque, ho scritto a Alicia Joy, lei mi ha risposto, al contrario di Amber Navran, mi ha risposto ma quasi subito. Ma questo è meraviglioso, sul serio? sì, mi ha detto anche che è stata in Italia, tra l'altro, la scorsa estate. Ti ha detto stata che in Puglia. E che ti ha stato bene, mangiato bene, Puglia, sì, bene, fantastico, ragazzi. Tornerei il giorno dopo. E ti credo, ma in Puglia si sta benissimo, così come si sta bene in Italia. In Italia si sta bene se vieni in vacanza, no? A voglia. Vivere e lavorare in Italia che è più complicato. È un po' difficile. Più complicato. Sì. Comunque, auguriamo a 3070 di arrivare presto in Italia con Alicia Joy. Magari. Allora, com'è? Non l'ho vista in fotografia. Caruccia. Un po' strana pure. È un lei. Tipo? Un tipo, sì, sicuramente. C'ha meno piercing di Ney Palm, però questo sicuro. Ney Palm è un bel soggetto. È un po' più normale di Ney Palm. Altro che personaggione. Vabbè, sì. Ney Palm è idolo proprio, sì, no? Sì, assolutamente. Quindi personaggio, personaggione o idolo? idolo nei Palm. Nei Palm, invece Alicia? È personaggione. Va bene. Comunque, questa band è da tenere d'occhio e da seguire. Sì, perché sono molto attivi sul panorama, ma diciamo, a me piace australiano. Proprio il suono, mi piacciono anche le composizioni, gli arrangiamenti. Il disco, sì. Questo disco ho avuto il tempo di ascoltarlo con attenzione. Poi... anche perché oramai i dischi io li ascolto in macchina. Come mi arrivano, subito li butto nell'USB e vado avanti. Sì, alla fine è il modo migliore per concentrarsi, anche perché alla fine, mentre c'hai un tempo morto, tu ascolti e quindi riesci a mettere anche a fuoco determinate cose che magari in studio non senti. È molto interessante anche il fenomeno musicale australiano. Sì, ci sono tantissime band che stanno venendo fuori, che sono fantastiche. Che hanno una loro identità e un loro sì, sono un loro particolari, suono. Completamente diverse da tutte le altre band sì, che vengono. Iniziano ad avere proprio una loro personalità. Cioè, sì. Io, quasi senza sapere che erano australiani, quando ho sentito il disco di 37, ho detto, ma questi mi ricordano Hiatus Kaiyote oppure qualcosa dei Fat Freddy's Drop. Insomma, c'è quel tipo di ambiente sonoro e di atmosfera che mi riportava fra l'Australia e la Nuova Zelanda, che sono due territori oggi da tenere in considerazione musicalmente parlando. Sì, soprattutto per queste band che in realtà, come i 37, sono dei collettivi molto ampi, che comunque hanno tanti, coinvolgono tanti musicisti al loro interno. L'album si intitola Elevate, la voce è quella di Alicia Joy, loro sono 37, il prossimo brano che ascoltiamo per capire meglio il sound e la mentalità di questi ragazzi si intitola Breaking for This World to Change. Soundcheck, il suono della musica di Gegé Telesforo. Eh sì, qui mi sembra proprio una produzione tipo Tommy Lee Puma per Diana Krall, con l'orchestra d'archi, con gli standard. Qui invece protagonista è la voce di Gregory Porter, lui ha cantato benissimo in questo album, rifacendosi al repertorio di Nat King Cole. Infatti il disco è proprio un tributo a Nat King Cole e si intitola Nat King Cole and Me. Già primo in tutti i cataloghi digitali, in tutti gli store digitali di iTunes in Italia, primo in classifica nel reparto jazz, ma anche primo nel resto del mondo, e quindi un'operazione centrata da un punto di vista discografico. Però a me non è piaciuto tantissimo, ecco. Devo dire la verità, perché lo vedo come un tributo un po', diciamo, senza personalità, non aggiunge nulla di suo Gregory Porter alle versioni di Nat King Cole. Sai che questa è una cosa che dobbiamo dire al nostro amico Sacha Alvasandani, perché più di un anno fa Sacha Alvasandani, quando venne da noi il nostro ospite, poi siamo stati in giro a fare concerti, mi disse che stava lavorando con il pianista Taylor Exty a arrangiamenti nuovi per celebrare Nat King Cole, perché c'è la ricorrenza, non so se quanti anni dalla morte o dalla nascita, insomma c'è una ricorrenza in questo periodo, quindi anche lui stava pensando di ricordare Nat King Cole. Fatto sta che Gregory Porter lo ha bruciato. Sì, però credo che Sajal farà comunque il suo tributo, anche perché l'idea è completamente diversa da quella che ha avuto Gregory Porter. Infatti Gregory Porter non ha avuto un'idea musicalmente parlando se non quella di fare il tributo, perché è proprio stampo classico, canta benissimo, bellissima produzione, sta avendo il successo che si aspettavano tutti, però vedi il tromba per esempio. Sì, non mi è piaciuto. Però c'è un altro disco pronto per Natale. Sì. Quale? Questo di Gregory Porter, già sì, ce l'hai. Cioè questa è una colonna sonora perfetto. Per le vacanze di Natale, è perfetto, no? Sì, sì, perfetto. Visto alla fine canta anche This Natale. Christmas, e quindi l'operazione è mirata, è fatta per bene. Sì, poi c'è anche, diciamo, tutto un versante affettivo, perché Gregory Porter ha conosciuto la musica di Nat King Cole quando appunto sua madre, tornando da casa, aveva ascoltato una registrazione che aveva fatto lui, che aveva 5 anni, Gregory Porter, gli disse, guarda, somigli un po' a Nat King Cole. Lui non Scusami, che stai dicendo? Cioè, la mamma ha sentito una registrazione di Gregory Porter che aveva cantato. Sì, aveva cantato una canzone a cinque anni. Sì. E alla mamma ricordava Nat King Cole. Sì, esatto. Pensa che storia e che intuizione la mamma. Sì, e poi non avendo avuto, diciamo, un buon rapporto con il padre, Gregory Porter vedeva Nat King Cole un po' come suo padre, nel senso, soprattutto nella canzone Pick Yourself Up, lo vedeva come se fossero dei consigli che gli dava suo padre. Bene, qui Gregory Porter ci ha fatto fatto ascoltare Sweet Lorraine, proprio con Nat King Cole e Me, l'album di questo colosso della vocalità contemporanea, chiudiamo questo appuntamento del soundcheck. Direi di ascoltare un altro classico. Qui Gregory Porter si lascia andare anche allo spagnolo. Il brano è famosissimo, Quizás, Quizás, Quizás. L'arrangiamento è splendido. Oh, se vuoi ti levi la cuffia e non lo ascolti, tromba. Che mi sa che me la leverò. Ma che cattivo, è tremendo, Bo Marzi, eh? Il tromba è tremendo. Va bene, a tutti voi buona domenica, buona serata, buona settimana e buona musica da Riccardo Bo Marzi, Francesco Tromba e Gegè Telesforo. Ci risentiamo sabato prossimo alle 19:15, sempre e soltanto su Radio 24. Eh sì.